son qui con un pizzico di nostalgia. Che magia, e mi sento ancora a casa mia. Sensazione unica, voglia di restare qui, voglia di ballar con te. Ballo, ballo, ballo da capogiro, ballo, ballo, ballo senza respiro, ballo, ballo, ballo, mi invento un passo che fa così, fa così, fa così. Pazza, pazza, pazza su una terrazza, porta, porta, portami una farfalla, ballo, ballo, ballo nel mio castello, che cosa c'è? Mi vorrei un istante riposare per un po' e poi subito ricominciare. Sensazione magica.